Ora. Ora, ora, ora, ora. 3, 4, 5, 6, prova. Ehi, Antonio. Mi senti, sì, a voglia. Ehi, a voglia, va bene, va bene. D'accordo, ok. Tutto ok, tutto ok, tutto ok. Versione pappa. Via. Esatto, sì, tutto a posto. Già va bene, già va bene, forse è chiaro qui. Come sto arrivando a casa tua? Tutto a posto, sì. Sì, qua c'è il segnale 8. E la radio, se riesci a alzarla un pelino, va ancora meglio. Aspetta, il discorso è quello. Vada a prendere un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso è alzata parecchio, sei a picchi di 9 adesso. Ah, ok, meglio così. D'accordo. Posto con picchi di 9. Meglio così, sono d'accordo. Gava. Tranquillo, tranquillo, non c'è problema. Pensando, non c'è nessun altro? No, per la mano no, la verità, eh. Dice, vedere un po' di... Aspetta un secondo, voglio fare una prova. Ok. Vabbè, sono con il microfono normale, devi capire anche quello. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora. Ciucucciù. No, già va bene, Antonio. È buia. È appunto per quello. A voi io va bene. Cioè, va bene. Oh, sono contento, sono veramente contento, guarda la verità. Così. Fanculo, cazzo, questo fischio di cazzo. Aspetta un secondo, siccome non mi ricordo più come la panica funzionava, quindi a un certo punto. Eccolo qua. No, Antonio, tu stai facendo male. Sto facendo male? Sì. In che senso sto facendo male? No, non lo so, Antonio, c'è un bel segnale adesso. Ah, oh, aspetta. Canale 10, settore 10, c'è qualcuno? Hola. Sessore, canale 12, c'è qualcuno? Sessore 12? C'è qualcuno? Hola? Beh, usci a posto. Beh, Antonio. Ciao, come va? Tutto a posto, sì. Tutto a posto, non te lo dico, le volte nuove, cioè, se no non riesco a capire quello che dice, sei talmente forte. Così forte, ciao. Non può essere. Ho detto con quanto stai uscendo, per curiosità. Guarda, sto uscendo con pochi watt, la verità. Anche perché non sai che quello che mi è successo non lo lavoro nessuno. Quindi a un certo punto, quindi, con i miei ultimi watt, eccetera, eccetera, capito? Saranno 5 watt, 6 watt, non di più, e quindi... le volte se cioè no non riesco a fare. Anche tu mi ascolti forte, naturalmente, siamo talmente vicini. Sì, sì, ok. Aspetta, ho acceso la luce più che altro perché avevo un accidente, quindi a un certo punto. Adesso va bene. Hai capito? Allora, vediamo un pochettino, sono con lo... vabbè, sono con lo... con 140 e... cos'è 140 questo? Io 140. Come mai c'è il bip? Che microfono hai messo? Il bip del microfono, già lo sai anche tu. Ecco, lo stacco. Eccolo qua. No, no, diciamo, non c'è il 60, quindi come microfono. Cos'è? Un MBBU che microfono? Ah, c'è l'altra, già lo sai anche tu. No, ma il microfono, hai messo un altro microfono, non hai messo il 60. No. Sto usando il coso, l'MC40. Che cappa. E tu come va? Tutto a posto, sì? Diciamo, sì, quello che può andare, che ancora qualche postumo di raffreddore, c'ho sempre un po' la gola che mi sta rompendo le scatole, la tosse. Ah, va bene, già va bene. Non dire niente, già, quello, a un certo punto... Sì, adesso già passa, ma le stagioni, gli ultimi colpi di coda del tempo brutto, adesso speriamo che come finisca la Pasqua ritorni il bel tempo, così almeno ci possiamo mettere la manica corta. Speriamo, la verità speriamo a questo punto. Sì, nessun altro c'è, ho fatto una chiamata, ho risposto tu, nessuno ha sentito. No, non so più sentendo, l'altro giorno ho sentito per sbaglio, mi pare che c'eri anche tu Luca, 5 minuti, te ci avete, ho fatto un giro anche al canale 12, canale 15, ci sono quelli di Alghero, dice il 15, io non li ho mai sentiti. Sì, qualcuno già c'è, Marco, ma noi che siamo tutti la verità. E quelli con buon Feng, gli infermieri, più sentiti li hai? Vabbè, quelli, quello è un discorso diverso, in PMR qualcuno già c'è, è la verità, ma centrale. No, non parlo di qualcuno, io parlo di quelli che l'altra volta mi hanno fatto sentire, quelli del coso, gli infermieri dell'ospedale che si mettevano a parlare tra di loro. Vabbè, a parte quelli, poi ci sono quelli delle, come ti posso dire, quelli che lavorano qua di fronte, sabato e domenica, quindi anzi venerdì, sabato e domenica non sono altro. Loro ci sono, quelli vicino a te. Yeah. No, quelli, oh, non lo so se erano quelli, quello che ho sentito io, pensavo fossero quelli di giù, dell'ospedale di giù. No, te sto dicendo io, venerdì, sabato e domenica ci sono loro, ci sono, quindi figurati, c'è a divertirsi ogni giorno. Il problema è il fatto che adesso è... Cioè, i primi giorni che l'ho aperto è un discorso diverso, ma adesso è, le cose sono cambiate, sono, in pratica c'è gente importante, capito? Non mi ripeto più di tanto, perché se no ci mi metto, ci sono gli avvocati, ci sono giudici, eccetera, eccetera, capito? C'è gente che ha soldi. Andrà bene. Allora ti lascio, ragazzi, mi hanno chiamato. Ci sentiamo un'altra volta. Ciao, buon tutto, buona serata. Sì, altrettanto. Ci sentiamo, dato. A me, dove bene che tu, non c'è problema. Ciao, domenica a te. Ciao, ciao, ciao.